TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. La crisi geopolitica nel Golfo comporta forti ripercussioni anche sulla nostra vita quotidiana. Il comparto energetico fa da traino ad altre attività, fino al commercio dei beni essenziali. Siamo andati al mercato all'ingrosso di Udine per capire rincari e tendenze degli ultimi giorni. Nell'evento che ha celebrato i 30 anni dell'iniziativa centroeuropea, importante forum di cooperazione con l'Est Europa, si è discusso anche di un tema centrale per il porto triestino, quello del corridoio economico tra India ed Europa. Ne abbiamo parlato con il presidente dell'autorità portuale dell'Alto Adriatico, Marco Consalvo, che parla dei lavori al Molo Ottavo. Nelle prossime ore annuncia il bollettino, la bora si intensificherà con raffiche che in giornata potrebbero superare i 60-70 km orari sulla bassa pianura e la costa occidentale, superare i 100-110 km orari a Trieste. A Udine è stato fatto il punto dell'amministrazione comunale sulle opere del PNRR, quelle in corso e quelle alle quali si è dovuto rinunciare. Il consorzio industriale di Maniago ha presentato i risultati degli ultimi due anni di un progetto per il welfare nelle aziende sul territorio. Le iniziative di sostenibilità ambientale all'Università di Udine. Da anni l'Ateneo studia sistemi e metodi che vengono messi in pratica per dare un esito concreto alle idee e alla ricerca sul tema. Le 12:31 minuti e 30 secondi, questi titoli, ancora un buongiorno da Giorgio Beyers e Andrei Marusic, che condurranno questa seconda edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia di mercoledì 18 marzo. In apertura dunque la crisi geopolitica nel Golfo, che comporta forti ripercussioni anche sulla vita quotidiana del Friuli Venezia Giulia. Il comparto energetico fa da traino ad altre attività, fino al commercio dei beni essenziali e quelli alimentari. Siamo andati così al mercato all'ingrosso di Udine proprio per capire la tendenza dei rincari e degli ultimi giorni. Via Vai di Carrelli, operatori in movimento, si compra, si vende, eppure quando arriviamo noi alle 7 del mattino è quasi ora di chiudere al mercato agroalimentare di Udine, il più grande della regione, da 700.000 quintali di materiale scaricato l'anno. La merce più buona e pregiata, ci spiegano, è stata venduta già alle 4-5 del mattino. A causa della guerra nel Golfo Persico sono pochi i prodotti che non arrivano più. I melograni o i pompelmi da Israele sicuramente sì. Il vero riflesso del conflitto però non è la mancanza di scelta quanto il costo dei trasporti, carburante alle stelle, scene già viste purtroppo, ma non così. Elena Tosolini, titolare azienda di trasporti. Nel momento della scoppio della guerra in Ucraina, ma si è presentato in modo più lento con la crisi energetica che ne è derivata, questo qua da un giorno all'altro. Quindi... Per voi economicamente cosa significa? Significa un aumento dei costi dal giorno all'altro del 30% circa. Ed è soprattutto il prodotto nostrano, quello italiano, a pagare di più le conseguenze di questa crisi. Paolo Cervellin, titolare azienda ortofrutticola all'ingrosso. La merce che arriva dall'Italia, che 99% viene trasportata su gomma, il costo del trasporto inevitabilmente un 10-30% in più immediatamente lo pago. Il nostro è un mercato dai prezzi nervosi, ci spiegano gli operatori. Il trasporto incide, ma anche il clima. Non solo il maltempo nelle piantagioni, anche le temperature. Se c'è sole, mangiamo pomodori freschi. Se fa freddo, verdura cotta. Andrea Freschi, titolare, negozio al dettaglio. L'ortofrutta è fatta di prodotti che sono condizionati dal prezzo in funzione della loro disponibilità. Per esempio, se il prezzo delle fragole ora è alto, cosa dipende? Dalla guerra? Assolutamente no, il prezzo delle fragole in questo momento dipende dal fatto che è aumentata la richiesta. In contrapposizione ci sono delle condizioni climatiche nel meridione d'Italia, che è la zona di provenienza delle fragole, che non sono ottimali, quindi tempo brutto, poca produzione, ma aumenta la richiesta perché comunque ci stiamo avvicinando alla stagione primaverile. La gente ha bisogno, come abboccato, di rivolgersi a prodotti primaverili, e le fragole sicuramente sono l'unico frutto che in questo momento viene raccolto e commercializzato in pochissimi giorni. Udine, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. A Trieste, nell'evento che ha celebrato i 30 anni dell'iniziativa centroeuropea, importante forum di cooperazione con l'Est Europa, si è discusso anche di un tema centrale per il porto triestino, cioè quello del corridoio economico tra l'India e l'Europa. Ne abbiamo parlato con il presidente dell'autorità portuale dell'Alto Adriatico, Marco Consalvo, che si è soffermato anche sui lavori al Molo Ottavo. Presidente dell'autorità portuale Marco Consalvo, a che punto è il progetto IMEC, che appunto dovrebbe collegare India ed Europa tramite Medio Oriente, e che ruolo può giocare Trieste? Ma Ma è un progetto legato a una prospettiva internazionale di collegamento con l'India, quindi ha dei tempi, diciamo, parliamo medio-lungo periodo, però estremamente interessante. Bisogna poi tradurre in sistemi logistici, più di parlare di un corridoio, ma parleremo di un network di accesso di questi potenziali merci nel Mediterraneo e nell'Adriatico. Trieste diventa l'infrastruttura di riferimento. Lei sostiene che dal punto di vista infrastrutturale questo porto va potenziato, deve crescere anche per ridurre i disagi alla città. Voi siete pronti per il prossimo comitato di gestione già a presentare, a dare via libera al progetto del Molo Ottavo? Sì, allora, il porto di Trieste ha sicuramente il mercato, per cui dobbiamo avere una configurazione che ci consente degli ampliamenti, non solo per esigenze di mercato, ma per trovare un equilibrio anche nell'interfaccia con la città. Ma l'Ottavo quanto dovrebbe costare questa opera infrastrutturale e chi dovrebbe finanziarla? 315 milioni, due terzi con finanziamenti pubblici e un terzo con un finanziamento privato. Per questo progetto è funzionale il progetto di Servola, quindi della stazione, della nuova stazione ferroviaria e anche dello svincolo stradale che consente poi lo sviluppo di questo terminal, che il flusso possa arrivare sull'alta capacità triestina senza interferire con la città. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. La Protezione Civile Regionale del Friuli Venezia Giulia ha diramato un'allerta meteo per le prossime ore. Una depressione si muove in modo retrogrado dai Balcani verso il Mar Tirreno, determinando sulla regione l'afflusso di forti correnti orientali o nordorientali negli strati medio-bassi. Nella notte sulla costa ha continuato a soffiare bora moderata con raffiche fino a 60 km orari a Trieste. In quota ha soffiato vento da nord o nord-est e sono stati misurati sulle prealpi carniche oltre 80 km orari a Monte Prate e 89 km orari sul Monte Rest. In Carnia oltre 90 km orari sul rifugio Marinelli. Nelle prossime ore, annuncia il bollettino, la bora si intensificherà con raffiche che in giornata potrebbero superare i 60-70 km orari sulla bassa pianura e la costa occidentale, superare i 100-110 km orari a Trieste. In quota continuerà a soffiare vento forte da nord-est che, valicando le prealpi, potrebbe generare qualche raffica di vento forte anche sui versanti meridionali e le adiacenti località di pianura. A causa delle condizioni meteorologiche avverse, da oggi e fino al miglioramento del tempo atmosferico, i giardini pubblici recintati di Trieste rimarranno chiusi al pubblico. Diamo uno sguardo puntuale al meteo. Cielo da nuvoloso a coperto sulla regione, le temperature registrate alle 11, Trieste 10 gradi, vento 30 km orari da est-nord-est, bora con raffiche a 75 km orari. Pordenone 13 gradi, Gorizia 11 gradi e mezzo, Udine 11 gradi, Tolmezzo 8 gradi e mezzo, Forni di Sopra 5 gradi, Tarvisio 1 grado e mezzo, Sappada 3 gradi. Monte Zoncolan meno 3, Monte Lussari meno 4, Grado e Lignano 11 gradi e mezzo. E queste le previsioni dell'ARPA. Oggi pomeriggio cielo da nuvoloso a coperto, variabili in serata. Su pianura e costa, come detto, soffierà bora da moderata sostenuta anche forte a Trieste, con le raffiche che potrebbero raggiungere i 110 km orari. In quota vento sostenuto forte da nord-est e con possibilità di qualche raffica più forte. Domani bel tempo con cielo prevalentemente sereno, su pianura e costa bora moderata sostenuta a Trieste, in attenuazione dalla sera, vento da nord-est moderato anche in quota. Le attività istituzionali del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia di oggi. Si parte tra poco alle 13.30 nella sala gialla di Piazza Oberdan a Trieste con la conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari per programmare la prossima seduta. Seguita poi alle 14.30 dalla sesta commissione chiamata a eleggere un vicepresidente, a definire calendario e priorità dei lavori, con al centro anche il prosieguo della sessione europea 2026. Nel pomeriggio spazio allo sport con il presidente dell'assemblea Mauro Bordin, che riceverà nel salottino del secondo piano giovani promesse del pattinaggio artistico su rotelle. Seguirà l'omaggio del consiglio anche ad Antonio Squizzato, campione del mondo all'Inclusive World Championship 2025 di vela. Spostiamoci a Udine, dove è stato fatto il punto dell'amministrazione comunale sulle opere del PNRR, quelle in corso, ma anche quelle alle quali si è dovuto rinunciare. I cantieri sono quasi ultimati, secondo le tempistiche previste dal PNRR, la cui scadenza è stata prorogata al prossimo 30 giugno. A Udine sono tre i progetti legati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza post-pandemia, con focus su commercio, inclusione sociale e servizi alle famiglie. Il polo scolastico di Via Adige, 180 posti pubblici per bimbi in età prescolare da 0 a 6 anni, dunque asilo nido e scuola materna, è già completato. Mancano solo arredi e piantumazioni, ma sarà attivo a partire dall'anno scolastico 2027-2028. In questo caso l'investimento è stato di 6 milioni di euro. 14 milioni di euro invece è costato l'intervento di potenziamento del polo ortofrutticolo di Udine Mercati. Si è trattato di realizzare grandi celle frigorifere e un magazzino automatizzato da destinare allo stoccaggio e alla gestione delle merci, migliorando la logistica dell'approvvigionamento. Oltre a questo, l'efficientamento energetico e impiantistico del polo ortofrutticolo. Infine, il terzo cantiere, anche questo in fase conclusiva, è consistito nella realizzazione di oltre 70 appartamenti rientranti nel piano Pinqua a San Domenico in Via Derna. Le abitazioni, tutte in classe energetica A, sono destinate alla residenzialità a canone concordato dell'ATER, mentre alcuni appartamenti al piano terra saranno dati in gestione alla vicina comunità Pier Giorgio Onlus per persone autosufficienti con disabilità fisiche o intellettive. Il quartiere sarà dotato anche di una biblioteca pubblica, che sarà la seconda più grande di Udine dopo la Ioppi. In questo caso l'investimento è stato di circa 20 milioni di euro. Stamani il sopralluogo nei tre cantieri con il vice sindaco Alessandro Venanzi, che ha la delega proprio sui progetti PNRR. Udine, Lorenzo Gerlinzoni, TGR Friuli, Venezia Giulia. Asugi ha ottenuto fondi statali dell'8 per 1000 per rafforzare prevenzione e cura delle dipendenze. Il progetto Reti per la Salute e l'Inclusione Sociale, tra i 33 selezionati a livello nazionale, ha puntato soprattutto sui giovani. A Trieste è partita una sperimentazione dell'abitare supportato, un appartamento per tre under 25 seguiti dai servizi con supporto educativo e psicologico per favorire autonomia e reinserimento. Nel Basso Isontino, a Ronchi dei Legionari, ha aperto uno sportello d'ascolto per intercettare precocemente il disagio rivolto a ragazzi e famiglie. Previsti anche percorsi personalizzati di formazione e inserimento lavorativo, con l'obiettivo di prevenire ricadute e costruire percorsi di uscita stabili dalle dipendenze. Siglato formalmente l'accordo con cui Ascom Monfalcone entra a far parte dell'Ecomuseo Territori Genti e Memorie tra Carso e Sonso. A sottoscrivere il patto sono stati Davide Iannis, presidente del Consorzio Culturale del Monfalconese, che gestisce l'Ecomuseo, e il presidente di Ascom Monfalcone, Davide Comolli. L'intesa siglata, è detto in una nota, non è un semplice atto formale, ma l'avvio di una sinergia operativa strutturata, grazie a cui il mondo del commercio e della ricettività entreranno stabilmente nella progettualità ecomuseale. Museale. L'obiettivo comune è quello di elevare la qualità dell'offerta territoriale, facendo delle imprese le protagoniste e i cardini della promozione culturale. E a Trieste è stato fatto il punto stamane sulla gestione del servizio idrico integrato. L'acqua a Trieste costa molto di più, quanto viene sottolineato nell'audizione in terza commissione del Consiglio Comunale, convocata su richiesta dell'opposizione insieme alle associazioni di consumatori e ambientaliste. La penultima in vista di giugno, quando l'AUSIR, l'autorità regionale unica in materia, accoglierà le valutazioni per definire poi criteri e condizioni per la nuova assegnazione del servizio idrico integrato a dicembre 2027, una nuova concessione che sarà trentennale. La gestione al momento è affidata da Cegas APS AMGA. I costi delle bollette, l'aspetto più critico. Secondo Federconsumatori, una famiglia di tre componenti che consuma 150 metri cubi all'anno, nel 2020 spendeva in media 403 euro, nel 2023 473 euro, aumento di oltre il 17%, con un ulteriore rincaro successivo del 5% per arrivare a 500 euro all'anno nel 2025. Costi che superano la media nazionale e quella del nord-est e anche quelle delle altre città regionali. Spese che si intrecciano con il problema delle perdite idriche. In Friuli Venezia Giulia attestate intorno al 42,3%. A Cegas APS AMGA avrebbe già anticipato che anche con una riduzione delle perdite al 35% entro il 2038, le bollette comunque non costerebbero di meno. Associazione dei consumatori, ma anche politica, con maggioranza e opposizione, d'accordo sulla richiesta di tutela delle fasce più deboli, per un contenimento dei costi, ma anche per evitare la sospensione del servizio in caso di morosità. Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. Oggi è la giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid-19. A Begliano, frazione di San Canzano di Sonzo, si terrà una commemorazione alle 15.30 al Parco della Memoria, dove ogni anno dal 2021 viene piantato un albero in ricordo di chi ha perso la vita proprio a causa del coronavirus. Durante la manifestazione sarà data voce a coloro che, durante la pandemia, erano impegnati per gestire l'emergenza. Il consorzio industriale di Maniago ha presentato i risultati degli ultimi 2 anni di un progetto per il welfare nelle aziende sul territorio. Bilancio positivo per il progetto di welfare territoriale sviluppato dal NIP, il consorzio industriale della provincia di Pordenone. In 2 anni nella piattaforma digitale sono stati caricati come credito disponibile per i dipendenti oltre 2.600.000 euro, con un consumo effettivo di 2.136.000 euro, e il 70% speso direttamente nel territorio. Gestibile tramite app, consente infatti di fare acquisti anche nei piccoli esercizi di vicinato e per piccoli importi. Il direttore del NIP, Saverio Maisto. Il 69% dei crediti caricati ricadono sul territorio, viene speso velocemente, viene speso con grande soddisfazione da parte dei dipendenti, e aziende che hanno aderito riconfermano la volontà di aumentare i loro progetti di welfare. 74 le aziende aderenti con i loro 2.200 dipendenti. Tra gli ultimi ingressi, quello della municipalizzata GEA. I settori di spesa più utilizzati sono alimentari, elettrodomestici e abbigliamento sportivo. 320 gli esercenti convenzionati. I crediti welfare sono stati spesi prevalentemente nei comuni di Maniago, Meduno e Spilimbergo. Ancora Maisto. Partiamo sicuramente dal territorio maniaghese, poi lo spilimberghese, il sanvittese. Stiamo arrivando con le prime convenzioni nel pordenonese, andremo nel sacilese a brevissimo, e perché no, sognare in grande vuol dire poi avere un unico progetto che possa essere regionale. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Migranti e imprenditori, il valore delle persone, questo è il titolo dell'incontro promosso da Confindustria Udine, dedicato al rapporto tra fabbisogno di manodopera qualificata e integrazione nel territorio. L'evento è promosso dal Centro Culturale Enzo Piccinini con l'Associazione Taverna e Confindustria Udine, con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia, all'interno del ciclo Frontiere e Sconfinamenti. Appuntamento alla Torre di Santa Maria di Confindustria Udine dalle 18. E parliamo di sostenibilità ambientale con le ultime attività messe in campo dall'Università di Udine. Da 10 anni l'Ateneo fa parte del RUS, la rete delle università per lo sviluppo sostenibile. In più studia sistemi e metodi che vengono messi in pratica proprio per dare un esito concreto alle idee e alle ricerche. La sostenibilità ambientale è una cosa di cui si parla tanto e che però richiede soprattutto di agire. L'Università di Udine la mette in pratica da anni, sia nella didattica sia nella ricerca, ma soprattutto con le sue applicazioni, rendendo così concrete le idee e i progetti. Si va dalle lampadine a basso consumo ai pannelli fotovoltaici sugli edifici. Sara Colussi, docente del Dipartimento Politecnico di Ingegneria e Architettura dell'Università di Udine e delegata di settore per la sostenibilità. Al momento l'università è dotata di pannelli fotovoltaici che producono all'incirca 750 megawattora annui di energia fotovoltaica, appunto, che corrisponde più o meno tra, diciamo, il 15-25% del fabbisogno energetico degli edifici su cui insistono questi pannelli. Il parco fotovoltaico sarà ampliato, una soluzione per raggiungere maggiore autonomia e per ridurre la spesa energetica, ma la sostenibilità passa anche per i comportamenti quotidiani come gli spostamenti. L'università da tempo promuove, per il personale e per gli studenti, il ricorso alla mobilità attenta, limitando l'uso di auto e favorendo biciclette e mezzi pubblici. Abbiamo già messo in campo alcuni interventi, come per esempio la realizzazione di alcune colonnine per la ricarica e la manutenzione delle biciclette. Si sta avviando una convenzione con Trenitalia e è stato migliorato il collegamento tra la stazione di Udine e le varie sedi universitarie. Le iniziative sono tante. A breve, per esempio, ci sarà un Energy Manager che seguirà il percorso di efficientamento energetico dell'università. Ma che il tema in generale sia importante lo dimostra anche l'interesse degli studenti. Abbiamo assistito a un evento, al cosiddetto evento zero della nostra comunità studentesca, un gruppo di studenti che si è riunito proprio per discutere, per contribuire in maniera concreta alle iniziative dell'Ateneo sui temi della sostenibilità. Trieste, Dario Ronzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia. Questo pomeriggio alle 17.30 presso il Kleiner Bamberg Saal di Villacco si terrà la conferenza conclusiva del progetto Interreg Indie Alps, sviluppo turistico innovativo e sostenibile. Durante l'evento i partner di progetto provenienti dalla Carinzia e dalle regioni italiane, Friuli Venezia Giulia e Veneto, presenteranno i principali risultati raggiunti. Momento centrale dell'incontro sarà l'intervento del tecnico faunista Paolo Molinari, dedicato al tema lupo, orso, lince e turismo naturalistico. E come rinasce il Carso dopo gli incendi del 2022 grazie agli insetti impollinatori? Api, farfalle e coleotteri sono protagonisti indispensabili del processo naturale del quale parlerà il biologo e ecologo Kevin Rečnik dell'Università del Litorale Sloveno in un incontro inserito nel progetto Interreg Italia-Slovenia. Cras4as presenterà i risultati del primo censimento scientifico che rivela una sorprendente biodiversità nelle zone disastrate dalle fiamme. L'incontro sarà online, Rečnik però ci racconta in anteprima i dati raccolti. I dati parlano di una biodiversità sorprendente nelle aree colpite dagli incendi. Cosa significa concretamente per il Carso? Noi abbiamo effettuato un censimento degli impollinatori su superfici incendiate e in punti di controllo, sia in ambienti forestali che quelli aperti, cioè gli ambienti partivi. L'incendio generale apre l'habitat creando così condizioni favorevoli alla crescita di piante fiorite, che poi attirano gli impollinatori. Ad esempio, in un sito forestale di controllo a Monte Pastel abbiamo registrato circa 25 taxa di impollinatori, mentre in una vicina area forestale bruciata circa 45, così che l'aumento è significativo. Negli ultimi tempi stiamo osservando gli incendi sempre più frequenti e di dimensioni crescenti. Questo può avere a lungo termine effetti negativi, perché non lascia abbastanza tempo alle popolazioni di organismi per riprendersi. E in che modo queste conoscenze sugli impollinatori possono tradursi in strategie concrete di gestione e tutela del territorio? Cerchiamo di sviluppare strategie per una gestione adeguata e il monitoraggio regolare della presenza delle specie fornisce così dati fondamentali su quali specie siano presenti e se alcune popolazioni siano in declino o se si stiano diffondendo specie non autoctone, specie invasive. Nel caso la gestione è quindi essenziale non solo a causa degli incendi, ma anche per contrastare la sovraccrescita della vegetazione dovuta all'abbandono delle pratiche agricole tradizionali. Lo sport basket Cividale prende la guardia alta Luca Campogrande, proveniente da Pistoia, dove non ha reso secondo le aspettative. In precedenza Campogrande aveva giocato per 4 anni a Trieste, con cui da comprimario aveva vinto la A2 nel 2024. E a Lignano Sabbiadoro il via il torneo internazionale di tennis tavolo paralimpico World Para Challenger con quasi 300 atleti da 43 paesi. Organizza la Federazione Italiana Tennis Tavolo con il patrocinio di Regione e Comune e sotto l'egida della Federazione Internazionale. In gara medagliati paralimpici come la pordenonese Giada Rossi e il triestino Matteo Parenzani in un evento che conferma Lignano tra i punti di riferimento mondiali della disciplina. Appuntamento al Bella Italia EFA Village fino al 21 marzo. Con gare di singolare e doppio. Pallavolo turno infrasettimanale oggi per la A2 maschile. La Tinet Prata giocherà a Ravenna con inizio alle 20. Una domenica di corsa per chiudere in bellezza la stagione invernale e iniziare a pensare a quella estiva. Ad Aviano domenica torna il cross della Pedemontana, giunto alla 15ª edizione, uno degli appuntamenti più classici dell'annata regionale sui prati. Aperta a tutte le categorie, dagli esordenti al settore assoluto, la competizione nella sua edizione 2026 del cross della Pedemontana sarà valida anche come campionato regionale master individuale e di società. Alcuni appuntamenti di oggi in regione: spettacolo di prosa dal titolo Contrazioni pericolose, commedia tra ironia e mistero, una produzione di artisti associati con Rocio Muñoz Morales, Giorgio Lupano e Gabriele Pignotta. Appuntamento al Teatro Verdi di Gorizia alle 20.45. Ti ho sposato per allegria di Natalia Ginzburg, tra ironia e relazioni nel circuito Earth con la regia di Emilio Russo e Giampiero Ingrassia in scena al Ristori di Cividale alle 20.45. Appuntamento con il jazz del Steve Gadd Trio, tra i protagonisti della rassegna Note Nuove dedicata alla musica contemporanea nell'ambito della programmazione di Euritmica con il sostegno di Regione, Comune di Udine e Fondazione Friuli. Sul palco Steve Gadd insieme a Michael Bleacher e Dan Hammer al Palamostre di Udine dalle 20. Altro concerto jazz, una notte al Cotton Club con atmosfere del celebre club newyorkese. In scena la Trieste Early Jazz Orchestra nella stagione promossa con il circuito ERT. Appuntamento all'auditorium alla Fratta di San Daniele del Friuli alle 20.45. Visita guidata musicale dedicata al contrabbasso tra racconto e esecuzioni dal vivo al Civico Museo Teatrale Carlo Schmidl con studenti e docenti del Conservatorio Tartini a Palazzo Gopcevic a Trieste dalle 17.30. Al Festival Dedica di Pordenone, presentazione letteraria in prima nazionale del romanzo Il libro di Kells di Serge Chalandon. All'interno del Festival Dedica con l'autore in dialogo Federica Manzon al Capitol di Pordenone alle 20.45. Presentazione del romanzo Quattro presunti familiari di Daniele Mencarelli tra Noir e Identità alla Libreria Lovat di Trieste con l'autore in dialogo con Francesca Iannelli alle 18. Altri incontri della giornata, quello dedicato al restauro dei registri della Prefettura di Gorizia, a cura dell'Archivio di Stato di Gorizia insieme alla Fondazione Palazzo Coronini-Kronberg, al Salone Centrale di Palazzo Coronini-Kronberg a Gorizia alle 17.30. Il filosofo Emanuele Severino parlerà di follia della tecnica, con lui Marco Riva, cofondatore di Osia.it, in via Rossetti 20 a Trieste alle 18. In conclusione, incontro culturale su matematica ed esoterismo tra simboli, filosofia e tradizione pitagorica. Intervento del matematico Roberto Daris all'antico Caffè San Marco a Trieste alle 18. Ed è tutto per questa edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia, che è stata redatta e condotta da Andrei Marussic e Giorgio Beaz, che vi parla con la collaborazione tecnica di Viola Romanese e Samuel Montalto. Ha collaborato in redazione Samantha Gon. Prossimo appuntamento con il giornale radio alle 15. A tutti l'augurio di un buon proseguimento di giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.